Ehi, che sta succedendo? Quei figli di puttana hanno vinto il processo e fanno una dimostrazione. Quali figli di puttana? Quegli stronzi del partito nazista. I nazisti dell'Illinois. Io li odio, i nazisti dell'Illinois. Fuoco alle polveri. Go hell and Paul Berry. Radio Bomba. E buonasera e benvenuti alla 57esima puntata di Fuoco alle Polveri qui su Radio Wombat. Ciao a tutti. Ciao Tuco, buonasera. La tana nel Wombat è gremita oggi. Un sacco di roditori. Un po' incastro, ma più si è meglio è, no? Allora, salutiamo Grande Drago, Briccobaldo, JP, Mario, l'ospite che sto per presentare, Enrico Tommasini. Dietro di me, ci mancano. Qual era? Lapo, giusto, la polemica. E il nuovissimo. Il nuovissimo. Baffi austriaci. Vero? Yosemite. Allora, di cosa parliamo oggi, Briccobaldo? Oggi ci concentriamo in particolar modo su Afrin. Su Afrin avremo un paio di collegamenti. Kurdistan siriano. Perché sappiamo. Purtroppo non lo sanno tutti che la situazione sta degenerando, nel senso che è ancora peggio. Se poteva andare peggio, sta andando ancora peggio. Quindi ne parleremo con. Avremo un collegamento direttamente dal presidio sotto la RAI a Firenze. Esatto. Che è stato indetto per oggi alle 17. E sapranno spiegarci bene, meglio di quello che sta succedendo. Ma prima abbiamo un'intervista da fare. Ebbene, abbiamo appunto, come vi dicevo, Enrico Tommasini che ci racconta il suo lavoro, essendo lui un ricercatore dell'Università di Vienna. Grazie. Lavoro Ground Tour. Detto bene? Sì. Più o meno. Ce lo dirà fra poco. Ma comunque, anzi, andiamo a dritto. Quindi. Andiamo a dritto. Facciamo questa puntata scoppiettante. Sì, mi piace. Anche perché abbiamo un sacco di collegamenti da fare, allora io inizierei subito con questa intervista. Allora, a te la parola, Mario, direi. Dai. Ciao, buongiorno. Ciao. Allora, sì, come hai ben detto, siamo qui con Enrico Tommasini, fra l'altro ciao, benvenuto. Ricercatore, se non parli vicino non ti sentiamo. Ricercatore dell'Università di Arti Applicate di Vienna e fondatore appunto del progetto Grand o Ground, in effetti, non lo so io, Tour. Ground. Ah, allora avevi detto benissimo. Hey, hey. Del progetto Ground Tour, un progetto relativamente giovane, esiste da un paio d'anni e già qui a Firenze, in alcuni degli spazi anche del Wombat, già era passato per alcune attività. Ma andiamo avanti subito. Dici, Enrico, ciao, benvenuto. Che cos'è? Benvenuto. Questo progetto, chi sei e di cosa vi state occupando? Grazie mille a tutti quanti per avermi qui su Radio Wombat. Grazie, mi sentite? Io perfettamente. Chiaro. Ci sei, okay, ci sei. Fantastico. Grazie per avermi qui, appunto come è stato detto da Mario, vengo da Vienna, almeno dove studio. Sentiamo l'accento, infatti, tipico. Il progetto Ground Tour è un progetto che nasce un anno e mezzo fa, in realtà nel 2016, ed è un progetto appunto di viaggio che cerca di promuovere e definire un nuovo modo di viaggiare in maniera collettiva. E che concepisce il viaggio come un connettore fra realtà sociali e tra persone, di individui e realtà sociali che operano in diversi territori. Concepisce quindi il viaggio come uno spazio trasformativo di immaginari sedentari, nel senso il viaggio come portatore di, come un innovatore, come forma anche di scambio fra culture, ma soprattutto fra persone. L'idea principale che sta appunto alla base del progetto è quella che tramite il viaggio si possa andare a supportare una serie di realtà in diversi territori, mettendoli in connessione, e si mettono in connessione col pensiero di utilizzando appunto una diverse forme che si richiamano anche a forme più puramente artistiche. Il primo viaggio organizzato... E questo progetto, scusa, nasce all'Università di Vienna e in che ambito di studi? Nasce all'interno dell'ambito di studi appunto il social design, un ambito di studi sperimentale e transdisciplinare che porta insieme persone di diverse discipline per indagare nuovi metodi per creare il cosiddetto, probabilmente un po' troppo utilizzato termine, cambio sociale o cambio di tendenza all'interno della nostra società. E il Grand Tour appunto si perfettamente si registra e si definisce all'interno di questi canoni, comunque è una volontà di trasformare paradigmi accettati globalmente, vuole portare un po' sulla discussione ciò che è locale, ciò che è globale, cercando di metterli in interazione e comunicazione. Sì, ci parlavi degli esiti effettivi appunto che da questa riflessione si sono sviluppati e... Il primo viaggio organizzato appunto dal Grand Tour è stato un viaggio che ha toccato l'Italia principalmente con un gruppo di viaggiatori di circa 12 persone e ha toccato tutta una serie di realtà sociali, quindi anche luoghi autonomi fra Roma e Firenze, mettendo appunto facendo collaborare fra di loro collettivi artistici, attivisti e appunto il gruppo di viaggiatori, che comunque è sempre una parte caratterizzante di un Grand Tour. La formazione del gruppo di viaggiatori è la base su cui poi si va a creare un Grand Tour. Ma inoltre in realtà il Grand Tour cerca proprio di definire un metodo di viaggio che vada a analizzare criticamente un luogo dove un viaggio viene organizzato. Infatti in realtà oggi siamo qui a introdurre uno dei pezzi che fanno parte di questa sceneggiatura, sì, aperta, che sono stati creati appunto a partire da una ricerca fatta nei Balcani l'estate scorsa nel 2017. Ricerca durante la quale appunto in un gruppo appunto di 4-5 persone provenienti da tutta Europa, infatti il collettivo che sta dietro al Grand Tour era un collettivo internazionale di persone. Abbiamo appunto organizzato una serie di workshop ed incontri individuali in diverse, con attivisti, promotori culturali, artisti ed altri ricercatori urbani, antropologi, ponendo sempre una semplice domanda: qual è la tua percezione dei Balcani? Chiedendo appunto qual è la sua percezione dei Balcani, quindi chiedendo di rappresentare la loro percezione e cercando quindi anche di far emergere una visione di un territorio che non fosse appunto la visione dettata dall'esterno, dall'interno, ma cioè piuttosto dall'interno, ma che fosse appunto rappresentativa di anche della natura frammentaria della rappresentazione che poi, se si vuole, è parte integrante di un territorio. Sì. Vuoi farmi qualche altra domanda? No, di quello in particolare magari mi viene effettivamente in mente, può essere davvero parte integrante. Ma in realtà, prima di andare magari a parlare più dettagliatamente di questo che stiamo per sentire, qualche riferimento per chi volesse approfondire e cercare questo progetto nel mondo del web o della realtà? Allora, questo progetto per adesso lo potete trovare principalmente su Facebook, però in realtà ora stiamo uscendo con quella che noi chiamiamo un Open Call for Actions, ovvero stiamo invitando tutte le realtà che abbiamo incontrato nei Balcani a continuare a collaborare con noi per l'organizzazione del prossimo viaggio, e ora stiamo mettendo anche su una piattaforma web dove ci potrete seguire. Comunque sulla pagina Facebook trovate più o meno tutto e ovviamente potete scriverci e chiederci più informazioni se siete interessati anche a partecipare in futuro, perché l'Open Call appunto sarà aperta a una serie di entità sociali non solo nei Balcani ma in tutta Europa. Ma infatti prossimamente dove si dirigeranno le vostre attenzioni? Continuiamo sui Balcani, perché dopo aver fatto appunto questa fase di ricerca appunto l'idea è di andare a indagare, invitare le persone che noi abbiamo incontrato nei Balcani, da cui abbiamo ricavato tutta una serie di informazioni, di percezioni di questo territorio, li invitiamo a immaginarsi con noi delle storie di immaginazione, perché crediamo appunto in un mondo di conflitti e rassegnazione la speranza più bella che si possa creare appunto sia quella di creare collettivamente delle storie di immaginazione di cui in qualche maniera possiamo diventare tutti quanti parte. Noi cerchiamo di farla appunto facendo diventare i viaggiatori attori di queste storie di immaginazione, perché torneremo a viaggiare nei Balcani il prossimo anno e per adesso stiamo portando avanti questo processo partecipativo. Noi ovviamente intanto qui ti aspettiamo quando ritornerai in zona dai pellegrinaggi e dagli studi d'Oltralpe. E però intanto che cosa ci fai sentire di questo appunto primo tour che avete compiuto? Allora vi faccio sentire questa opera aperta, o diciamo sceneggiatura aperta, che abbiamo composto. Abbiamo composto partendo... Scusa, il rimando è Echiano a questo nome? Sì, è solitamente Echiano. Appunto l'opera aperta nel senso che noi con questa open script, come lo chiamiamo noi, volevamo definire un piccolo universo da cui si potessero generare diverse interpretazioni e nuove interazioni, e quindi abbiamo cercato di narrare i Balcani con le voci delle persone che abbiamo incontrato, anche se di fatto poi siamo noi a interpretare queste voci. E che sono appunto, siamo giunti a definire sei personaggi dei Balcani, che sono sei atti dei Balcani. L'atto che ho portato oggi, che è appunto il primo di una serie, appunto il primo di sei, si chiama The Origins in Our Disorientation, sarebbe l'origine del nostro disorientamento. Che di base, e ora vi leggo un po' un trafiletto e poi si introduce e si va, descrive uno stato di confusione tra come un individuo, una società definisce se stessa in relazione alle origini percepite, come ad esempio il patrimonio culturale, la lingua, la politica, la nazionalità e così via. Lo stato alternato, che è quello di disorientamento, si riferisce alla perdita di un senso di identità, quando non si ha più un'idea definita di da dove si viene o dove si sta andando in futuro. Richiama quel sentimento e sentore di disorientamento che tu hai quando esci da una zona di comfort verso un luogo non familiare. È quella sensazione di trovare qualcosa sia nuovo che confortante in un posto a te familiare. E questo è appunto il primo personaggio dei Balcani che abbiamo composto. Ovviamente ci potete chiedere di più e chiedere più informazioni alla pagina. Appunto vi presento quindi... o vi presentiamo il primo character, quindi il primo personaggio dei Balcani, che sono le origini nel nostro disorientamento. Ce l'abbiamo. Part 1. The origins in our disorientation. When we arrived and set down our belongings, we turned our heads briefly to glance back over our shoulders, and our eyes caught a glimpse of all the paths that we had taken to reach this point, all the diversions from our origins, beginnings, starting positions, and points of departure. They stretched out behind us like the branches of a tree, and we took a moment to stare longer at the spaces of the twisting roads and turning corners. All of them were moving and melding together, and then breaking apart again, as if alive. And if we wanted to try returning down the same street we came from, we could never have reached the same place again, since no way was the same direction as it was before. There is a huge gap. In my experience, I met so many people that would invite me to go visit them in Australia or USA or UK without realizing or knowing what is going on in Serbia. What is now? I am from Serbia. What people know is that it is the Balkans, even people from Mumbai. But actually, no one is sure what is going on. And we are not sure what is going on either. I don't travel a lot. I don't know so many things about other Balkan countries. My perception on the Balkans, I don't know. I don't have it. I don't have an opinion. It is a bit ironic, but when I'm not here, I miss these things. It is in a way you cannot objectively explain what happens and where we are now and how we hope with the world. Where are we now in the world map? I still don't know the map of Serbia. I don't know the shape of Serbia. And it is annoying because in the history books we never learned or saw how Serbia looks, because we always had a map of this and this. They put it in your mind. Serbia doesn't exist. When you talk to a young artist from Belgrade, the first thing they say is that they want to go away. But it is the same with Albania. Yeah, because I lived there the previous year, and my girlfriend is from there. And when she first told her family about me, they were all upset about it because I was Albanian of Kosovo instead of being Albanian of Albania. I didn't draw Serbia, but I drew the Balkans, as I think is the same in every country. Include Romania? Is it okay when I leave it out? Serbia is not Belgrade. Sofia is not Bulgaria. You should not go only to center if you want to have a different perspective. The Balkans are very much caught up in a tension between the East and the West. And we always refer to the kind of backwardness related maybe to patriarchy, related maybe to very much narrow-minded stubbornness. And you see that most of the population is engaged with that. We don't cooperate, we don't agree, we just fight. We really walk on the edge of a cultural conflict. At the moment, this divide will stay for really long. I don't know if there is a strive to come on a common ground or not. Macedonia is under question because it is sort of a project for a state, because there was not such an identity except for the historical name. You have Albanian and Bulgarian, and during the Yugoslavian time, a lot of mix of Serbian and Bulgarian population. There was an imposed Yugoslavian identity, so that even the language changed. Even though it is funny now, for example, my parents and people in their 50s who did Marxism and Leninism in school, as it was obligatory, now they are somehow understanding some of the lessons they took. Now they see that there are several directions to go. The railway is the shortest way. When you see a railway, you follow it. You follow certain gravity rules. Here you don't obey everything, and that can be a space for your maneuver. Nationalism here is really strong. It is not just a tool to instrumentalize people who are not emancipated or educated. I was shocked to discover that even people that are educated are so nationalist. Politicians used the crisis. They said, you will wake up tomorrow and your neighbor will be a refugee and there is contraband there. I am like the Balkans. Either I laugh or I cry. Many things here are contradictory. There is a lot of extremes. One of the totalitarian leaders from Bulgaria agreed with Tito in the 50s about no bad intention towards Macedonians who recognize themselves in Bulgarian culture. The opposite is that they are complaining all the time about the strategic plan they have written. Just imagine that. The only Albanians and Serbs that are good together in North Mitrovica are criminals. Because they have common businesses, they like each other. Explain then something that happened through the media, always telling different stories. Street knowledge and gossip, which is often more right than the formal documents. Did you ever see anyone hurting anyone? Or is it just fear and imagination? Just take a look around from the media and you will find. Yeah, I definitely look at the media and it is fake news all the time. It is fake news all the time? Maybe, I don't know. The order is a questionable thing here. Nationalism is a tool to play with low-class people. People were scared, asking, who are you? What are you doing here? You were fighting and bombing us, and now you come here to swim in our sea? But then eventually they were talking to us. And now that we have to be Europeans without knowing exactly what it is about. It would be great to give the possibility to travel. Where is the contemporary cultural reference coming from? In a sense, those are now global, so we don't have jobs and good money to travel. Me also. It is 6 years I don't travel out, apart from Croatia. Also, Bosnians, Serbians and Croatians that accepted Islam now believe they are Slavic Islam people. All those wars that happened here over the last 30 years were based on the idea that someone had suffered a historical injustice. So someone lost something she or he had. So it is an endless recalling of the justice, what it was. We did this to you, you did this to us, they did that to you, and so on. You have to accept that people keep the borders and don't like to let anyone live the way she or he likes. Around Kosovo, I drew a chain, symbolizing the strong grip of Serbia. This is just an example, but every country here in this region has an example like this one. Making history in a way you wanted it to be, or just in order to have one. This is the reason why, in general, I don't like history, because of all those manipulations and the possibility of changing it in the way that you want. To accept just those things that would make you proud, and so dismissing everything you are not proud of. And all the pressure afterwards. It is constant pressure. Political crisis, inter-ethnic tensions with Albania. The whole Yugoslavia still is so devastated that a spark is enough to start a new war. Not in Slovenia or Croatia, but in Bosnia, Kosovo, Macedonia, Serbia. Anything could happen from a moment to the other. Serbia is still part of Kosovo. Everybody's trying to get out of that unity that is really easy for manipulation. It's exhausting to be under this constant pressure led by completely absurd and constructed problems. They made the two countries sign a contract for peaceful and good relationships, which is nonsense, because we have these already. It is good to forget things from the past that might lead you on a future conflict. For example, for Serbia and Croatia. The funny thing is that every country or nation has its own version of the history. That's funny and amazing. Also in my sense, it is this kind of familiarity, it is this kind of leftover unity and fraternity of the socialist Yugoslavia. This fraternity made people realize that we are all the same around the borders. But they didn't realize this because we are all humans. They thought we are all the same because we are Balkans. And now that this Yugoslavia doesn't exist, they think we are all the same, but some are more the same than others. You overcome it. It is part of you, but it is not everything. People are surprised sometimes that we can do normal stuff too. Most of the time, a lack of awareness. It is hard to have one as we are running behind someone else. People are not thinking to search for their own identity. Even the Balkans tries to fit within the frame of global desire and global representation through consumer goods. People do not produce culture anymore, they consume it. And culture is produced in some studios totally removed from a context. People have really failed to see public space or any space in the nature as something that they own or something they can reclaim and make it better. Basically, there is no long-term vision for the whole region. Like that battle constantly for finding our own identity as a country, as a person, or as a group of people. I hope we step out of this soon, that a new generation will come and get it. Wherever you are, I don't know how to make these lines more understandable, but it tells. During the 90s, Yugoslavia was falling apart. We have not found closure. We have not found reconciliation. There are so many layers of history and culture here that you cannot... No one can tell it alone. I need more colors than I have now. And words too. Too many things to fit into a single picture. In hindsight, what we were staring out at the never-ending expanse of branches, we didn't recognize that the source of our journey was not the beginning of the road from which we had come. It was a lot closer to us than we first thought. In truth, we had been looking for the root of the tree as if we had left it behind somewhere. Yet, it was actually below us and following us all the time. Unstuck from the soil, floating above the earth, settling into place at each moment where our feet touched the ground. Here we are on Radio Wombat International. Oh yeah! Internazionali. What if you're winning? Ciao Enrico. Eccoci ancora di nuovo qui in onda. Abbiamo sentito il primo dei 10, giusto? Dei sei personaggi dei Balcani. Che no, nelle. Sparato. Dei 15.000 personaggi dei Balcani che sono in realtà sì, 15.000, ma ce ne sono tantissimi dentro, diciamo. E nelle prossime settimane, qui su Fuoco alle Polveri, visto che di Balcani, come ben sa chi ci ascolta, ci piace molto parlare, Iori! Li ritrasmetteremo e avremo occasione di sentirli nelle prossime settimane. Ti riavremo giusto per qualche introduzione che ci farai da lontano a quello che andremo a ascoltare di volta in volta. Chiaramente mi riavrete, vi ridarò una piccola introduzione a tutti i personaggi che abbiamo costruito con molte voci, sono circa 100 voci dei Balcani, 100 persone. Però torneremo anche in Italia perché stiamo organizzando una serie di esibizioni, un'esibizione viaggiante fra Roma e Firenze, sperando. Ora mi hanno detto un po' che sull'inglese qui magari ci sono un po' di perplessità, ma a Roma sono più bravi. No, ma magari anche a Roma no. Però cerchiamo di capire un pochino come fare, però ci piacerebbe molto venire in Italia con il lavoro che abbiamo fatto. Noi qui insomma da questi microfoni cercheremo di seguire, di risentirci al meglio. Tanto quindi grazie a Enrico Tommasini, The Ground Tour Project su Facebook per seguire e poi i link in descrizione di questa puntata da domani sul sito della radio. Grazie mille a tutti. Wombat! Ciao! Yuri! Yuri! Oh! Caccia! Dai che c'è il festival! Dal 17 al 20 maggio presso la Polveriera Spazio Comune, terza edizione del Festival di Letteratura Sociale. Presentazioni, dibattiti, concerti, spettacoli, banchini ed esposizioni. Con la partecipazione di Alberto Prunetti, Davide Grasso, Marta Fana, Ilaria Agostini, Lello Voce, Edoardo Rialti, Vanni Santoni e molti altri. Programma completo sulla polveriera.noblogs.org. E eccoci qua, Fight for Afrin. Così Great Fight for Afrin. Sì. Per segnare il cambio di argomento, ci spostiamo dai Balcani al Medio Oriente. Sì, sì, come vi abbiamo prima annunciato, no? Nord della Siria. Allora, poco fa armeggiavi. Poco fa armeggiavo sì, con armeggiavo con il telefono e cercavo di chiamare i nostri i compagni al presidio, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Il presidio per cosa? L'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, lo ripetiamo ancora per in solidarietà al popolo curdo che sta subendo un attacco ad Afrin, nel cantone di Afrin, da parte della Turchia e di truppe alleate con alla Turchia filo, insomma, jihadiste. La situazione sta diventando molto molto molto critica, in quanto si sono avvicinati tantissimo alla città, tanto che distano circa 2,5 km e quindi stanno già bombardando con armi pesanti la città, con innumerevoli vittime civili, soprattutto civili, come del resto è stato dall'inizio di questo conflitto. Fino adesso la comunità internazionale tace sulla questione, tutti i giornali sono assolutamente silenzio nonostante i bombardamenti degli ospedali, scuole, la sede della Croce Rossa siriana. Assolutamente sì, la mezzaluna rossa. Anche attacchi chimici a un certo punto, no? È venuto... Pare anche attacchi chimici, sì, in verità i giornali sono concentrati su una parte invece, o su un'altra parte della Siria, ma invece i combattimenti sono molto violenti, tanto che sia l'esercito curdo ha spostato delle truppe da un fronte invece dove stava combattendo l'ISIS ad est del paese, sono state spostate qualche giorno fa nel cantone, così come anche c'è stato l'ingresso di milizie filogovernative siriane, quindi sono arrivati dei rinforzi, non abbastanza perché i turchi, ma in particolare ancora più che i turchi, perché gli attacchi frontali vengono compiuti dalle milizie jihadiste, che hanno bombardato tutte le postazioni, sono state precedentemente bombardate, fra l'altro anche con armi NATO, quindi probabilmente, anzi sicuramente, la Turchia fornisce arma a queste milizie che tutti noi abbiamo contribuito a comprare, a pagare e a costruire, e vanno a finire sulla testa dei compagni in Kurdistan. Quindi lo sentivo anche stamani mattina, a proposito approfitto per rilanciare un buon approfondimento, è stato fatto alle 12.30 di oggi, cioè da oggi pomeriggio ci dovrebbe essere la nostra rassegna stampa settimanale come ogni lunedì online sul sito. Sono stati letti alcuni articoli, alcuni comunicati direttamente dal fronte. Un fatto che è stato rilevato, ho sentito stamani, molto interessante, è che gli Stati Uniti hanno ufficialmente, per la prima volta fra l'altro dall'inizio del conflitto nel territorio siriano, dichiarato di non avere forze a sufficienza per riuscire a compiere delle azioni preventivate contro delle milizie jihadiste in altri territori più distanti da Afrin. Questo perché? Perché tutti i curdi sostanzialmente sono impegnati nella lotta di resistenza della città di Afrin. Quindi è una dichiarazione esplicita più che mai di come chi davvero stava combattendo sul terreno a prezzo di sangue, di organizzazione, eccetera, eccetera, davvero il jihadismo, erano le milizie curde. Verissimo, e non si ferma qua, perché nei piani della Turchia c'è quello di conquistare anche un'altra parte del Kurdistan siriano, attualmente controllato dai siriani, che è il territorio circostante la città di Manbij, la quale non è stato appunto, non, è, non, non si sa se ci siano in forza delle, delle insomma delle parti dell'esercito statunitense. Comunque anche esso rientra nei piani di Ankara, quindi tutta la parte a ovest dell'Eufrate loro vorrebbero prendersela, e quindi chi è lì sta cercando di... Sì, non guardano al conflitto, guardano agli interessi che sono, che vanno ben oltre i territori curdi. Quindi noi dobbiamo, da qui, seppur per quel poco che riusciamo a fare, dobbiamo essere presenti, dare solidarietà, cercare soprattutto di infrangere il muro mediatico che si è creato intorno ai curdi, in quanto veramente tutte le testate dei giornali non fanno menzione della questione. Nonostante l'attacco sia attivo da circa quasi 2 mesi, perché è partito il 20 di gennaio e quindi adesso sono quasi 2 mesi di combattimento che si stanno inasprendo sempre di più, il rischio è molto alto. Il rischio è molto alto in quanto quelle terre che attualmente sono controllate dai curdi, nel caso di conquista, nel caso di sconfitta dei curdi, andranno in mano non tanto all'esercito di Ankara, non tanto ad Ankara, quanto veramente alle milizie che sono rimaste senza terra e quindi, diciamo, hanno una forte motivazione per la conquista del territorio. È chiaro che il cambio di stato, cioè il cambio sarà estremamente forte, passando da un concetto di vita di comunitaria, come può essere che è quello portato avanti dal popolo curdo e non solo, a un islamismo estremo da parte degli jihadisti, con tutta la loro idea sulla questione dello stato della donna e insomma la violenza perpetuata e chi più ne ha chi più ne metta. Scusami Bricco se ti interrompo, ci stanno intanto riscrivendo i compagni dal presidio. Prima li abbiamo sentiti, erano una 50 di persone a Firenze, come in tutta Italia, dove la pioggia non si è imposta, anche molto più numerose queste presenze, ma ci hanno scritto adesso e allora li possiamo fra pochissimo anche adesso chiamare. Bene. Se ci va, o facciamo una rubrichetta e poi torniamo con Afrin, oppure mettiamo... Grande Lago, lei cosa suggerisce? Oh! È pronto, Yuri? Yuri! Dai, ma facciamola una telefonatina, supportiamoli questi... Yuri è sempre questi pronto, compagni. Mettiamo un attimo un sottofondo musicale, facciamo la telefonata e rientriamo appena abbiamo il collegamento, allora. Vai. سكوز تران دغشنا وان تنيري ساستان أقام يكتفو تمي ديوان لتاسني تلاد الشكوى إنا ينورني سنجي تسانا تابا سكوز تران دغشنا وان Come on. Di nuovo. Allora, in barba alla pioggia, i compagni sono fuori con bandiere, striscioni e avanti col presidio davanti alla RAI, che fra l'altro sta anche numericamente diventando più consistente. Stiamo adesso provando a telefonare, non so se il collegamento è già successo, è già riuscito. Forse. Proviamo. Pronto? Chissà. No. Pronto, pronto? Sì, ecco, ti sentiamo. Pronto. Molto ciao, basso. Ciao. Vi sento un po' piano, ma vi sento. Benissimo. Allora, cosa sai dirci? Come sta andando il presidio? Allora, il presidio qui sta andando molto bene. Ci sono tante persone presenti, nonostante la pioggia. Come forse si sente anche in sottofondo, sono numerosi cori. E, il responsabile è riuscito a parlare con... la RAI comunque c'è appena stata un'intervista e non so se ci sarà ora la possibilità per lui di salire addirittura negli studi. Bene, che ci dite della pioggia? Ve ne fregate? È arrivata un'acquazzone sulle vostre teste? La pioggia è tanta, ora 10 minuti fa pioveva veramente fortissimo, nonostante questo nessuno si è spaventato, hanno semplicemente aperto gli ombrelli e hanno continuato a cantare più forte di prima. E infatti li sentiamo i cori in sottofondo. Su cosa sono? Su Afrin? Cosa? Sono cori ovviamente a sostegno delle YPG di Afrin, ma anche cori contro Erdogan, contro l'infamia della Turchia e anche ovviamente contro i media italiani che non stanno dando il giusto risalto a questa tragedia sia umanitaria sia politica. Possiamo intanto noi comunque fare già da qui un appello per confermare che il presidio sta avendo luogo sotto la sede della RAI e quindi a chi ci ascolta e si trova in zona o vicino, insomma, facciamo l'invito ad accorrere e a sostenere quello che sta accadendo. Tra l'altro vi posso fornire una notizia lampo che un paio d'ore fa siamo sì? riusciti a contattare il combattente di Firenze che è attualmente ad Afrin, che ha confermato la criticità della situazione, però dall'altro punto di vista ha anche confermato che nessuno ha intenzione di abbandonare la città, che venderanno cara la pelle, difenderanno tutto quello che potranno difendere e che se la Turchia vorrà conquistare Afrin, questo per loro avrà un carissimo prezzo. Bene, avete è tutto. Un'ottima notizia, siamo felici di sentirlo. Avete tutto il nostro sostegno, forza e anche forza agli ascoltatori di diffondere la notizia il più possibile e se possibile a correre in prima persona al presidio che si sta svolgendo sotto la sede della RAI di Firenze in prossimità del Lobby Hall. Ci risentiamo anche fra poco, ti ritelefoniamo fra un po', sentiamo come sta procedendo la situazione. Ok, io vi informerò tempestivamente di ogni aggiornamento dal vostro inviato speciale, è tutto. Siamo fortissimi, bene. Viva, grande. Grande. Grazie. Ciao, ciao. A ciao. Più tardi. Siamo qui. Avete sentito? Non neanche la pioggia ci ferma, li ferma. Questa volta noi non la prendiamo. Allora, cosa possiamo fare fra tutto ciò che vogliamo fare? Io direi di alleggerire e stemperare la situazione tornando nel luogo in cui siamo partiti. Siamo partiti dai Balcani, ci siamo spinti in Siria, in Kurdistan, e adesso torniamo in lidi più vicini a noi, urlando. Sigla! Yuri! Yuri! Oh! Cazzo! Vai che comincia! E buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Tuco. Mi scoccia un po', sinceramente, togliere l'attenzione a questa situazione, appunto, e le contestazioni a... per l'attacco ad Afrin, e quindi mi scuso, però cercherò di portare un po' di allegria come sempre. A parte l'ultima volta che sono stato un po' greve. Eh sì, però era tanto che non venivi da era me. Tanto. Quindi ho pensato di riprendere la parte spumeggiante dell'Uro dei Balcani. Allora, che ce n'è? Gli gnomi. No. Oggi vi parlo di una cosa e parto da una domanda. La mandragola. Parto da una domanda. Avete notato in questi giorni, per caso, che i vostri orologi, io parlo di orologi attaccati alla corrente elettrica, quelli da comodino digitali, oppure quelli lì, il timer che dà l'ora sul forno a microonde, avete notato se ci sono dei ritardi? No, è una buona domanda. Ve lo dico io, non ci notate? Sì, ci sono dei ritardi. Non è perché vi hanno dato... forse l'avevo notato. Ah, ecco, vedi, buono. Non è perché vi hanno dato una sola, anzi, potrebbe anche darsi, ma è perché la colpa è della Serbia e del Kosovo. Sì, che c'entra? Esattamente. Come è possibile? Lo sapevate? Di entrambi. Come? Di entrambi. Di entrambe, diciamo, per questa vicissitudine. Chiaramente colpa, tra virgolette, non è che stiamo dicendo... che stanno rubando, ma anzi la situazione è abbastanza delicata, ecco, perché questa mancanza di elettricità è dovuta proprio allo scontro politico che tuttora è in atto tra la Serbia e il Kosovo. Il Kosovo, vi ricordo che nel 2008 dichiarò la propria indipendenza il 17 febbraio, per l'appunto, quindi siamo nel 2018, infatti in Kosovo ora si sta festeggiando questi 10 anni di lotta per l'indipendenza. Dico lotta nel senso che ancora non ci sono sufficienti paesi nel mondo per riconoscano l'indipendenza del Kosovo, quindi tutto in effetti non è i kosovari non possono uscire, per esempio, dal Kosovo e non possono andare in molti paesi. Ma tipo chi sono quelli che non lo riconoscono? Allora, di preciso non lo so. So che ci sono 112, se non sbaglio, paesi che hanno riconosciuto il Kosovo come stato indipendente, ma non sono sufficienti. Ho cercato di guardare un po', ma non sono riuscito a capire. Comunque, il fatto è che uno dei pochi accordi che tra l'altro potrà... Chissà gli USA. Eh? Chissà gli USA. Penso proprio di no. Perché gli USA, penso di no. Non lo so, però gli USA sì, perché lì è la Jugoslavia, ora si controllerà. Ecco, prendi il microfono. Ci abbiamo il dottore. Oggi c'ho il dottore e mi aiuta. No, non sono un dottore, però... lo sono. Boh. No, che in realtà gli USA sicuramente hanno riconosciuto il Kosovo in quanto stato indipendente. Se vai, per esempio, sì, no, ma infatti, ragionando storicamente, basta che vai a giro, c'è il viale dedicato a Bill Clinton. Ah, ecco, questo non lo sapevo. Sì, incredibile. Nel senso, ed è anche considerato da molti giovani, è considerato abbastanza una presenza, perché comunque gli Stati Uniti, volendo o nolendo, hanno bloccato quella situazione lì. Gli Stati Uniti sì, così come il Canada, ecco, e diversi stati europei e dell'Africa, l'Australia, la Russia, no, sì, la Russia europea. Comunque, no, la Russia, no, è una mappa strana, ho trovato una mappa un po' strana. Comunque, Enrico, il punto è che praticamente cosa è successo? Il Kosovo non ha prodotto sufficiente energia rispetto a quanta ne ha consumata, e secondo gli ultimi accordi che c'erano stati con la Serbia, il disavanzo doveva pagarlo la Serbia, cioè la Serbia dovrebbe dare quell'energia in più che il Kosovo non riesce a produrre, ok? Il problema è che la rete elettrica è europea, quindi un disavanzo di energia nell'area Serbia-Kosovo-Macedonia si ripercuote anche poi su tutto il resto dell'Europa, e quindi questo questo ritardo degli orologi è proprio questa mancanza di elettricità. Praticamente in Europa la frequenza dell'elettricità è di 50 Hz, che è un valore medio, per cui se si rimane all'interno di questa, di questo range, va tutto a posto, va, cioè una, è una forchetta di tolleranza per cui funziona tutto regolarmente. Però il Kosovo appunto ha utilizzato più energia di quanta ne abbia prodotta, a causa appunto poi delle continue dispute territoriali, cioè non si sa chi deve pagare, quindi non paga nessuno. Ok, il punto è questo, perché ci sono quelle parti del Kosovo che sono attaccate alla Serbia e che rivendica comunque la Serbia, che poi in realtà sono terra di nessuno da questo punto di vista energetico. Come ad esempio, io do solo un esempio per precisare geograficamente, al confine c'è Mitrovica, che è proprio considerata una terra di nessuno, dove in realtà la criminalità fa festa. Ah, ecco, vedi. Tutti i criminali sono amici, il resto magari no. Allora, quindi praticamente, essendo tutto un collegamento europeo su 25 paesi, basta che un nodo crei una differenza di energia e ci sono problematiche in tutta Europa. La rete eroga corrente alternata, un tipo di corrente elettrica nella quale la polarità si inverte ai momenti, vabbè, come si dice, con variazioni continue, e però non c'è questa sufficiente variazione per cui si è avuto questo calo di energia. Io non lo sapevo, sono rimasto molto perplesso. Non è male, infatti è una bella storia. E questo calo di energia ce lo dovremmo essere ritrovato in tutti i nostri apparecchi digitali. Esatto, praticamente gli orologi hanno perso tra i 5 e 6 minuti, dice. Ah, tanto. Non è poco. E quindi niente, c'era questa notizia e è per colpa appunto di questa disputa fra loro. Beh, verifichiamo, comunque iniziamo adesso, direi. Iniziamo a verificare cosa? I digitali, se abbiamo perso minuti qua intorno. Non so se l'hanno già i nostri forni digitali. Non so se già l'hanno risolto o se qualcuno ha pagato questa notizia. Ah, volevo dire da dove ho preso questa notizia, nel senso che l'ho cercata, l'avevo trovata. No, è una notizia seria, l'ho trovata anche su siti seri, però l'articolo meglio fatto è su apocalisselaica.net. Era però l'articolo in effetti meglio fatto, che parlava di questo, citava anche appunto l'Enso E, che è l'ente che raggruppa gli operatori di rete elettrica dei 25 paesi europei. Quindi poi niente, via, basta, l'urlo dei Balcani oggi è stato Yuri! Fatto, questo urlo fa perdere minuti, siamo sicuri che le recupereremo, e niente, alla settimana prossima se possibile. Comunque avrei un sacco di notizie. Ma come si salutano in Kosovo? Dai, non ne ho idea, però amici kosovari posso chiedergli. C'è un sacco di kosovari qui a Firenze, peraltro, e giocano quasi tutti a baseball. Lo sapevate? Non lo sapevo. A Padule, okay, se non sbaglio. No, giocano tra Firenze e soprattutto poi zona San Casciano, perché Grevenchianto è tutta appannaggio kosovaro. Reminiscenze americane? Reminiscenze americane? No, semplicemente gente che è emigrata. Non giocavano a baseball in Kosovo. Cosa? Ah, no, dici, no, dici. Non lo so questo. Cosa? Ma sì, sono collegati agli americani, ma magari certo, il baseball di garba per quello. Ma per forza, di sicuro. Dovresti farci una puntata su questa cosa. Dovrei farci una puntata, esattamente. Saluto il mio amico Kuiti, ma allora a questo punto e lascio la parola al resto di Fuoco alle Polveri. Sigla! Yuri! Sto imparando la notizia, mo fai precisino. Oh! Cazzo! Vai che comincia! Keep your head, everyone still. You can make me fall apart, but I won't blink. And you won't speak, and we won't blow away. Thank you. sa. Sempre sul pezzo qui su Radio Wombat. Assolutamente, ci siamo anche quando non ci siamo. Anche quando non ci dovremmo essere. Soprattutto forse quando non ci dovremmo. Ma noi... Perché potevamo per esempio andare al presidio. Potevamo essere lì, però non saremmo stati qua. E cosa stiamo per fare? Invece noi chiamiamo qualcuno al presidio, così tante più persone possono sentire e quindi accorrere. Sentiamo. Abbiamo il nostro inviato sempre, lo stiamo provando a chiamare. Sentirete il... Tu, forse tu. Eccoti, ti sentiamo. Ti sentiamo. Sono qui con il responsabile del coordinamento toscano per il Kurdistan. Che boh, ci parlo, cioè, se volete ve lo passo almeno. Sì, volentieri. Può rispondere a qualche nostra domanda. Ok. Pronto? Sì, buonasera, benvenuto ai microfoni di Radio Wombat Firenze. Abbiamo parlato del presidio, ci è stato detto che sei salito negli studi della RAI. Sì. Raccontaci com'è andata. Sì, siamo qui ancora sotto di RAI e abbiamo tirato un'attenzione per quello che succede, quello che accade in Afrin, città di Kurdistan, Siria Nord. 50 giorni che è stato turco, è cominciato bombardamento con l'aereo, usano armi chimiche, migliaia di persone stanno proprio, c'è un genocidio proprio, e nessuna Europa, nessun paese dell'Europa, nessun diritti di umani non parlano di questo. Proprio in Europa ha cominciato a giocare di tre scimmie che silenzio e non vede. Questa guerra non è il nostro guerra, noi stiamo proprio difendendo la nostra terra e noi stiamo difendendo proprio umanità lì in territorio. 2015 a Kobane uguale discorso successo, abbiamo contro di ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra cominciato a combattere donne curdi, abbiamo fatto liberare Kobane. Stato turco ha cominciato a creare un'altra volta delle queste terroristi e d'accordo con Stato Russia insieme stanno facendo bombardamento a città Afrin. In Europa sta minacciando proprio con profughi che non lascia viene in Europa, per questo Europa non parla, però noi stiamo morendo lì, ci sono dei bimbi, donne, stanno proprio facendo genocidio sulle città che vivono. Ecco, ricordiamo, per questo, fra l'altro, noi abbiamo girato tutte le parti di queste voci e portiamo in Europa. Ricordiamo fra l'altro che ad Afrin ci sono tutti i rifugiati delle zone vicine che sono accorsi sì. Nella città per certo, ripararsi. Certo, certo. Nel 2015 in città di Afrin teoricamente 300.000 persone, invece ora circa 1 milione di persone vive a Afrin, perché 2015 quelle che abbiamo salvato da Shengal, Yezidi, da Kobane, da vicino delle Kobane abbiamo salvato, portato verso Afrin. Ora in stato turco è cominciato proprio battere lì, combattere contro proprio sta facendo bombardamento di queste civili che vivono lì. Ecco, e invece lo stato siriano come sta reagendo? Stato siriano anche voleva prendere una posizione, però c'è una realtà delle Stati Uniti e un stato di Russia che non lasciano nessun passo, non lasciano nessun corridoio viene anche il regime dei siriani, vengono contro delle ISIS, contro del Stato turco, vicinare a Afrin, perché vogliono proprio cancellare sul mappa la città di Afrin. Ecco, il conflitto non interessa solo Afrin, bensì anche la città ad est dell'Eufrate, Manbij, giusto? Sì, sì, sia Manbij è proprio in confine della Siria, confine della Rojava, città di Manbij, città di Afrin, Stato turco sta bombardamento con d'accordo di Russia. Per questo noi stiamo facendo salvare gente, però loro proprio con l'aereo bombardamento fanno, per questo non siamo rimasto sotto bombardamento proprio. Bene, e il presidio andrà avanti fino a stasera, immagino? Sì, oggi è questo presidio per fare voce della media, radio, televisione, giornale, devono parlare, basta questo silenzio dell'Europa, per questo oggi abbiamo fatto Rai, però finché non arriva libertà, finché delle paese di NATO se non fa fermare di questa guerra, noi popolo curdo con i nostri compagni noi continuiamo la nostra manifestazione. Benissimo, quindi quello che state chiedendo è, al di là di una visibilità da dare a queste lotte attraverso i media, le televisioni e i governi, state domandando anche a chi compone l'Unione Europea e a chi compone la NATO di prendere una posizione netta in questo senso. E certo, alla NATO l'appello che state facendo. Certo, perché il Stato turco lo sapete anche, il Stato turco sì, è membro di NATO. Certo. E la comunità Europa proprio a questo silenzio deve rompere, perché è questo proprio un reato non solo turco, anche tutto il paese dell'Europa che è dentro del NATO. Per questo un paese di NATO sta facendo un genocidio di solo un popolo e di altri paesi stanno guardando, non dicono niente degli interessi delle petrolie, interessi delle armi, e noi stiamo morendo lì. Bene, allora avete tutto il nostro sostegno e noi cercheremo di aiutarvi il più possibile, per quanto ci è possibile, nella vostra causa. Noi, noi abbiamo bisogno di voi, perché ieri era Hitler, oggi Erdogan sta facendo proprio un genocidio sul popolo di vive lì, perché vive turkmeni, arabi, curdi, cristiani, tutti etnia vivono a Afrin. Per questo noi abbiamo bisogno di voi, giornali, radio, televisione, dobbiamo parlare, dobbiamo sostenere insieme per fermare questo genocidio. Assolutamente. Bene, allora grazie. Coraggio, buon proseguimento. Esatto, buona fortuna. Siamo con voi. Grazie mille. Invitiamo tutti i presenti. Grazie mille. Grazie a te, grazie a te. Grazie per questo collegamento. Continuiamo a seguire. Risentiamo. Succede qualcosa di incredibile nel breve, se no continuiamo a seguire le prossime trasmissioni con la radio. Intanto posso semplicemente aggiungere che venerdì è stata fissata un'assemblea, sì, per decidere le prossime mobilitazioni. Dici anche dove e quando? Purtroppo siamo in attesa, rilanceremo. Purtroppo mi sono perso i dettagli. Ok. Però comunque dovrebbe essere in zona. Sì, comunque basta seguire la pagina Facebook del coordinamento toscano per il Kurdistan per rimanere informati su tutte le mobilitazioni. Da. Bene, a più tardi. Fai un urlo anche per noi. A più tardi, ciao ciao. Quindi rilanciamo sempre adesso, chi può accorra presso la sede della RAI di Firenze. In alternativa potete seguire le pagine Facebook del coordinamento toscano per il Kurdistan, ci sono degli hashtag che sono stati lanciati per i presidi vari di oggi, e grande sostegno alla causa curda, come diceva prima il responsabile della comunità, che sta per avvenire un vero e proprio genocidio. Detto questo, penso che i nostri cuori siano abbastanza rotti. Sì. Come si fa? Tuco, hai una soluzione? Sì, secondo me... Cioè, ce l'hai? Sì. Dai. Per vincere contro la Turchia? Sì. No, perché non andiamo. Ce l'ho, però per commemorare i nostri cori a pezzi, e direi di lanciare la sigla di Ogor a pezzi. A sigla. Ah, sigla. Yeah, girl, who got a pets? se ma che già fa. Sotto il mare ci trovi di pisci, sotto la neve ci trovi la guazza, sotto le vesti della ragazza mo ci trovi una strana cosa, rossa, gialla, verde, rosa. Ma che cosa, ma che cosa, ma che cosa, che cosa c'è da? La mutanda da, la mutanda da, la mutanda, la mutanda da, non ne so capito bene. Che cos'è sta novità? Ciao amiconi di Fuoco alle Polveri! Ciao! Quanto cazzo mi siete mancati! Anche te! Sono finalmente ritornato con la mia rubrica di Ogora Piez. Ragazzi, era tanto tempo che non ci sono, anche per la vergogna dell'ultima puntata in cui avevo sparato una cazzata gigante. Me ne sono accorto tardi e avevo detto che tipo ho difeso il mio amore era dei camaleonti, invece dei nomadi. Per fortuna ci siete voi a farmi notare queste stronzate. Prego. Insomma, prego. Ciao, mi mancate tantissimo. Entriamo a bomba in questa situazione con la canzone meravigliosa che stiamo ascoltando qui sotto, che capirete si chiama La Mutanda Andà, ma proprio Mutanda Andà. Ah, è una canzone di un grande che solo nel nome è da amare, che è Pietro Focaccia. Piero Focaccia, scusatemi. Ed è questa, La Mutanda Andà, la colonna sonora, chiaramente interpretata da lui, che tra l'altro ci recita anche, di un film che si chiama La Bella Antonia, prima Monica, poi Dimonia. È un film del 72 di Mariano Laurenti. Storicamente è il secondo film, la seconda commedia erotica all'italiana della storia, dopo il film che si chiama Quando le donne si chiamavano Madonne. La commedia erotica, immagino che sappiate cos'è questo genere, che ha spopolato negli anni 70, che era iniziato un po' alla chitichella, giustificando il far vedere le donne tutte ignude in televisione con la ripresa di Boccaccio, di temi insomma legati al Decameron. Infatti venivano chiamati film decamerotici, termine meraviglioso. Insomma, bello. La Bella Antonia, prima Monica, poi Dimonia, è la grandissima, ma grandissima è dir poco, Edwige Fenech, che praticamente vuole sposare un tale Fosco, che tra l'altro, ragazzi, è interpretato dal grande Romano Malaspina, che era la voce di Ufo Robot. Ovazione, un grande doppiatore. Niente, no, vuole sposare questo Fosco, ma il padre non le concede la dote, allora lei si fa monaca. Alla fine di tutto il film, delle varie disavventure che Edwige affronterà, riuscirà a sposare Fosco e lo tradirà il giorno stesso del matrimonio. Insomma, Piero Focaccia, che nel film fa una parte di un pittore, una parte secondaria, che però canta questa meravigliosa canzone La Mutanda Andà, nasce a Cervia, inizia la carriera di cantante nella Riviera Romagnola e viene lanciato nel 63 da un pezzone meraviglioso che è Stessa spiaggia, stesso mare. Per quest'anno non cambiare, anche un po' di volume. Stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. Ecco, indovinate chi aveva scritto questo pezzo per il grande Piero Focaccia? La Fenech. La Edwige Fenech. Bravi, se avete risposto Vianello, chiaramente lui. Tra l'altro nel testo compaiono anche il grande Piero Soffici e Mogol, che Mogol sta dappertutto, come il prezzemolo nelle canzoni italiane. Insomma, Piero Focaccia nella sua lotta per la scalata al successo, che non riuscirà mai veramente a vincere, però che comunque gli darà belle soddisfazioni, parteciperà a Sanremo diverse volte, nel 64, nel 71, poi di nuovo nel 74, non arriverà mai in finale. Riesce però ad arrivare in finale con il suo secondo successo più importante. Nel 1970 riesce ad arrivare in finale, non a Sanremo, però in quella trasmissione canora radiofonica che era Un disco per l'estate. Arriva in finale ma non arriva tra i primi tre, dove invece arriva Orietta Berti con Finché la barca va. E beh, lui porta questa canzone meravigliosa ed è la prima che ci sentiamo oggi, veramente fantastica, e si chiama Permette signora. Canta Piero Focaccia. Vai! Straniera, ma chi sei? Ti vedo in tutti i sogni miei, da quando t'ho incontrata, così innamorato non sono stato mai. della balera aspetterò. Un giorno o l'altro arriverai con il marito, il fidanzato e un uomo sposato che non ti lascia mai. Permette signora, mi guarda da un'ora, vuol dire che stasera si accorta di me. Ha visto che l'una non amo nessuna, se balla mezz'ora le pago un caffè. Permette signora, mi guarda da un'ora, vuol dire che stasera si accorta di me. Visto che l'una non amo nessuna, se balla mezz'ora le pago un caffè. Le pago un caffè. Bella straniera ti lasciai per non morir dei pezzi tuoi. Ho fatto il militare, 3 mesi di mare, pensando sempre a te. E questa sera sono qui, puntuale arriverai con il marito, il fidanzato e l'uomo sposato che non ti lascia mai. Permette signora, mi guarda da un'ora, vuol dir che stasera si accorta di me. Lo so sono audace, ma il rischio mi piace, mi faccia felice, fuggisca con me. Permette signora, mi guarda da un'ora, vuol dire che stasera si accorta di me. Non so, sono audace, ma il rischio mi piace, mi faccia felice e fuggisca con me. Yeah, mamma mia. Ragazzi, stiamo ascoltando qui sotto uno dei tre quattro gruppi di musica veramente progressive che l'Italia abbia sfornato, ovvero sia Le Orme. Gli altri chiaramente li conosciamo bene, il Banco del Mutuo Soccorso, gli Area, la PFM. E se ce ne sono altri non so, fatemelo sapere. Fatto sta, comunque, Le Orme. Oggi ne parlo molto velocemente perché li uso solo come pretesto per uno dei loro primi grandissimi successi che avevo tanta voglia di farvi ascoltare, quindi mi scuso se sarò un po' sbrigativo. Magari passeremo, ci sarà altro modo, un'altra puntata per parlarvi meglio delle Orme. Insomma, questo gruppo è interessante scoprire come nasce, perché in solito sono un gruppo veneziano. Si forma Marghera, che non so se siete mai stati a Venezia. Marghera è quella cosa orrenda che si vede dalla sponda di Venezia, dall'altra parte sulla terraferma, che è un polo industriale, sì. Navale per lo più. Bene, loro nascono a Marghera, in questo posto abbastanza triste tra Mestre e Venezia, e inizialmente decidono di chiamarsi Le Ombre in onore agli Shadow, che era un gruppo beat inglese che gli piaceva tanto. Poi però capiscono che, non so se voi sapete, il termine ombra in veneziano, almeno a Venezia, indica quel bicchierino di vino, che una sorta di cicchetto di vino che i veneti e i veneziani in particolar modo si scoppiano dalla mattina alla sera, quegli ubriaconi che non sono altro. Che tra l'altro io penso che si chiami ombra perché è talmente tanto poco vino nella loro visione alcolista che è solo l'ombra del vino. Poi in realtà non è così, ma il termine viene anche perché dal fatto l'incupisce. Che veniva venduto il vino d'estate in giro per strada e sotto all'ombra. Diciamo sotto i cornicioni all'ombra, perché faceva caldo, la gente andava a bere il vino per strada, però appunto all'ombra, e quindi Le Ombre. Insomma, pensano di chiamarsi Le Ombre, poi per evitare questo tipo di malinteso decidono di chiamarsi invece Le Orme. I primi passi li fanno con una casa discografica che si chiama la Carl Jukebox, che li fa incidere tutti i pezzi sia in versione italiana che in versione inglese, perché si parla della metà degli anni 60 in cui l'Inghilterra e l'Italia si passavano i cantanti a vicenda come le caramelle, perché il beat era molto fruttuoso per le aziende discografiche. Insomma, già dopo la pubblicazione del primo singolo il loro batterista parte per il servizio e lo devono rimpiazzare. e questo dà il via a una lunghissima serie di, sì, appunto, di cambiamenti dei musicisti, dei componenti del gruppo, che continua tuttora, esistono tuttora i grandissimi Le Orme, e hanno cambiato finora una cosa tipo 20 musicisti, non dico stronzate, 19 per la precisione. Va bene. Il vero successo inizia ad arrivare nel 68, quando suonano, iniziano a suonare, si trasferiscono a Roma e iniziano a suonare al Piper, il Piper Club, ce lo ricordiamo, e incidono il pezzo che andremo a sentire oggi, che si chiama Senti l'estate che torna. Anche loro partecipano a un disco per l'estate come il grande Focaccia, e anche loro non vincono come il grande Piero Focaccia. Nello stesso anno incidono il loro primo EP, il loro primo disco, che chiamano Ad Gloriam. Te l'ho detto! Perché loro erano ben consapevoli di quanto grande, poco successo avrebbe avuto, e quindi sapevano benissimo di farlo solamente per la gloria. Fu un insuccesso tale che la casa discografica li scaricò. Fatto sta che l'anno successivo, viva, per un altro, per il chitarrista che era stato chiamato anche lui al servizio, si ritrovano in 3 da 5 che erano partiti, accettano nel gruppo questo tale Dave Baker, che era un inglese che inizia a suonare con loro. Incidono 3 provini, tra cui tra l'altro quello che stiamo sentendo qui sotto, cioè il concerto brandeburghese numero 3 di Bach. Guarda. E danno il via alla cosiddetta prog in Italia. Da lì un successo molto molto importante, che li trasporterà dai vari festival di Sanremo in Italia fino negli anni 70 all'isola di Wight per conoscere, ispirati da un giornalista che hanno incontrato a Londra una volta, del fatto che si comincia a parlare del progressive o progressive, come dir si voglia. Insomma, quando ritorneranno in Italia ci sarà la loro grande svolta nei confronti di questo tipo di musica molto particolare, e faranno il loro, uno dei più importanti CD che hanno fatto, che si chiama Felona e Sonora. Ascoltatelo ragazzi, è proprio un bel album. Da lì un tour negli UK, quindi in Inghilterra, e tuttora appunto suonano, ma roba che nel 2000 hanno fatto un tour, cioè nel 2007 mi pare, un tour in Canada. Anche negli anni 90 erano andati a suonare in Pennsylvania, adesso suonano in Belgio, in Giappone, insomma dei vecchietti arzillissimi che spaccano i culi. Vabbè, comunque ci ascoltiamo il loro Senti l'estate che torna, e ci ascoltiamo questo bellissimo pezzo proprio perché speriamo e sentiamo nell'aria l'estate che sta tornando, con tutta questa paura che ci mette la situazione odierna, ragazzi. Evviva! Thank you. il vento del nord se n'è andato e lascia nell'aria un sapore di cose lasciate al passato, senza rimpianto, senza dolore. Senti l'estate, l'estate che torna, ritorna. Senti con tutti i suoi sogni, ritorna. Senti l'estate, l'estate che torna. E insomma, ragazzoni, spero che vi sia piaciuto il grande Pierone Focaccione, il grande ormone. E bellissimo. Che dire, con quest'aria di estate nelle orecchie, sì, speriamo solo che arrivi presto. Che poi a me manco piace così tanto l'estate, però sì, come è dire, pazzo. Si è tutti no, un ha po' ragione, distesi, sopravvalutato. No, è troppo felice l'estate, inflazionatissimo. L'inverno va rivalutato. Antipatico odio che speriamo finisca presto, portato, spazzato via da una ventata di canzoncine stupide. Vi saluto e ci risentiamo la prossima volta, la prossima settimana. Viva fuoco alle polveri, viva Radio Wombat. Ciao ragazzi, un bacio. Eccoci di ritorno su Radio Wombat con l'ultimo collegamento. 1359 frequenza M, 1359 frequenza M. Se proprio non ci volete ascoltare sullo streaming, ci trovate lì e abbiate anche un po' di pazienza se il suono è un po' saturo. Saturo. Perché, come ben sapete, noi siamo sì una radio, ma siamo anche un laboratorio. Ve lo abbiamo spiegato nell'ultimo fine settimana, dove il penultimo fine settimana con We Want the Where Is Back. Potete andare a trovare i podcast con questa pronuncia qui, esattamente. Comunque, noi continuiamo sulla questione Afrin. Trovate approfondimenti, l'abbiamo già detto, ma ve lo ripetiamo: trovate approfondimenti nei podcast che sono andati, delle trasmissioni che sono andate in onda quest'oggi, cioè della rassegna stampa e Passaggio a Nord-Ovest. E Passaggio a Nord-Ovest, stampa rassegnata, esatto. Esattamente. Ma noi siamo qua per darvi aggiornamenti in diretta e quindi facciamo una bella chiamatina. Facciamo sì. Una chiamatina? No, ragazzi, perché io sono con... Dagli play. Non devo toccare questi aggeggi. Dagli play. Perché te devi anche fruzzicare proprio il microfono. Lo so, siamo un po' incartati. Comunque JP, ciao. Non so se eri mai intervenuto. No, forse no. Ok. Senti. Cioè, tutto il tempo lo faccio ma senza microfono, quindi. Ecco, voi signori, non vale, per i nostri ascoltatori. E sta partendo sta eccoci, telefonata. Ora sentiremo il tutto classico. No, è rotto. Chissà. Segreteria telefonica. Eccolo. No. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Ciao, mi ciao, sentite? Sei in diretta su Radio Wombat. Ok. Ciao. Sei in diretta dal presidio. Giusto? Sì, sono in diretta dal presidio davanti ai cancelli della RAIFA a Firenze, presidio in solidarietà ad Afrin e all'attacco che la Turchia sta portando avanti ormai da più di 50 giorni e l'esercito turco ormai è arrivato alle porte di Afrin e ha iniziato anche a bombardare le periferie. Afrin è la città principale del cantone in cui adesso c'è quasi il doppio della popolazione originaria per via degli sfollati delle zone limitrofe che si sono rifugiati nella città, una città che da giorni resiste nonostante il blocco totale, quasi totale dell'acqua, perché l'esercito di Erdogan, l'esercito turco, ha distrutto le dighe che portavano l'acqua alla città, e da pochi giorni anche l'elettricità non è quasi mai presente nella città stessa. Così come anche l'acqua, giusto? Esatto, così come anche l'acqua, anzi l'acqua è un'emergenza maggiore, perché appunto è già da più giorni che l'esercito turco ha distrutto tutte le dighe che permettevano l'accesso, cioè che permettevano alla città di avere le proprie risorse idriche, e quindi ad oggi è molto difficile avere sia l'acqua corrente che l'elettricità. Come sta andando il presidio? Sento uno scroscio di acqua, possibile? Il presidio tra pochino si scioglierà, e comunque è andato molto bene, è stato molto partecipato, c'era veramente tanta gente, sia la comunità curda della Toscana, sia tantissimi italiani in solidarietà e che sentono anche proprio questa battaglia, che non riguarda solo la popolazione curda, ma tutte le persone di tutte le parti geografiche, che pensano che un cambiamento sociale come quello che viene promosso dalla Confederazione Democratica in Siria sia possibile, e non solo sia possibile, sia necessario. Bene, ci hanno fra l'altro annunciato che ci sarà un'assemblea per preparare le prossime mobilitazioni in data di giovedì, se non mi sbaglio. Mi puoi confermare? Sì, sì, esatto. Giovedì ci sarà un'assemblea, l'orario indicativo è alle 7, purtroppo il posto è ancora da definire, le opzioni sono due circoli, uno in zona Novoli, uno in zona Porta al Prato. Appena verrà confermato chi dei due può ospitare questa assemblea, verrà fatta girare appunto la notizia con il luogo certo. Benissimo. Hai altre cose da dirci? Ma vi volevo passare una ragazza della comunità curda che ha un messaggio appunto da diffondere. Bene. Buonasera. Ciao, buonasera, grazie. Buonasera a tutti. Io volevo dire giusto due paroline, almeno esprimere il mio pensiero da ragazza curda. Credo sia veramente vergognoso che il mio popolo sia stato sostenuto da ormai due anni per la resistenza di Kobane, per la liberazione di Raqqa. Abbiamo ricevuto sia forniture di armi che sostegno politico, anche sostegno morale dall'America, dalla Russia e dall'Unione Europea. E trovarci in questo momento assediati dall'esercito turco è veramente vergognoso. L'unico messaggio che noi abbiamo ricevuto sia dall'Unione Europea che dalla Turchia stessa è quello di far evacuare i civili. Ovviamente il loro intento è quello di far uscire tutti i civili per poi chiudere nella cerchia i nostri guerriglieri e per radere al suolo tutta la città. Il nostro intento appunto è quello di ottenere una condanna internazionale, che credo sia molto difficile da ottenere. Ecco, tutto qui. Bene, noi sosteniamo la vostra causa e vi aiuteremo nel far sì che questa situazione in un qualche modo si sblocchi. Grazie mille. Buonasera. Buonasera. Sì. Bene, questo è quanto dal presidio. Avete sentito? Anche voci curde. E che dire, non sono stati molto fortunati oggi con questo temporale che è arrivato, però pare che insomma che sia andata bene ugualmente, e comunque l'intento di far parlare un esponente con la RAI, quindi sì, insomma il canale nazionale, sì, e di Stato, è più alto per sbloccare questa situazione che diceva anche adesso questa ragazza curda, perché in altri momenti di questa lunga guerra che si svolge tra la Siria, la Turchia, l'Iraq, c'è stata una risonanza anche mediatica abbastanza importante quando, certo, è stato voluto. Adesso quando è la Turchia a compiere questo attacco, a compiere questo massacro, c'è il silenzio di tutti. Comunque, di tutti. Va detto che vi ricordate, noi comunque seguivamo anche già da non era più Kobane, ma abbiamo seguito la vicenda curda. Sì. Abbiamo parlato più o meno in tutte le puntate, se non sbaglio. In molte. Una, sì. Già Comunque, la, vi ricordate quando parlavamo delle truppe islamiche che passavano sul territorio turco, l'ingresso di armi, cioè che lo Stato turco stesse dalla parte della, delle milizie, no? Già lo sapevamo. Sì, ma si sa da tempo. E già la stampa nicchiava, ecco questo volevo dire. Già la stampa nicchiava, erano venute fuori diverse... appunto diverse di queste notizie, sì, la stampa nostra nazionale, sì, sì, chiaramente, però appunto sia dalla stampa internazionale ma anche da una parte della stampa nazionale c'erano state delle anche delle rivelazioni, anche delle diverse inchieste molto interessanti su quello che stava succedendo. E niente, e probabilmente l'unico modo in questo momento per fermare lo Stato turco è che appunto ci sia una mobilitazione internazionale, che non soltanto lui, popolare, cioè... non soltanto ma anche degli, ma come ma diceva degli stati prima il responsabile, una nazione NATO sta facendo guerra e il resto della NATO tace. Sì, sì, esatto. Quindi, allora, o è assenso. Ma certo ha senso, ma è la natura della NATO, cioè, a mio parere, nel senso che l'imperialismo della NATO è dalla sua nascita, è vero, il suo tratto caratteristico. Non ci stupiamo. Stare a guardare anche, cioè, per capire un po' e porsi poi nella maniera più comoda che possano trovare. Cioè, non è mai stato altro il compito della NATO effettivo alla fine. Comunque terremo, diciamo, tanto non è inutile anche dirlo perché lo facciamo ormai da 2 anni e ci teniamo aggiornati. Ribadiamo la nostra solidarietà, vabbè, chiaramente, sì, a e anche l'invito causa. A interessarsi, a partecipare, a portare il proprio apporto a... Radio Wombat cercherà di tenervi, e le polveri in particolare, aggiornati su eventi che magari possono essere benefit o che portino anche un aiuto economico al fronte. Sì. Sì. Curdo. Bene. In tutto questo è finito il tempo, signore. Siamo alla fine. Siamo alla fine e quindi dobbiamo dirvi ciao. Purtroppo. Saremo qua ore. Però ricordatevi che cosa? Che tra pochino ci sarà la rassegna degli eventi della settimana. Exactly. Quindi non scappate. Sì, sì. E vi ricordiamo, siamo sempre in frequenza M da poco, 1,59, la frequenza. A seguire Uhuru, stasera. Sì. Uhuru, quindi musiche africane. Yes. E niente, ci sentiamo settimana prossima. Lunedì prossimo, 16:30, con Fuoco al Polveri. Wombat. Fuoco alle polveri. Go hell and Paul Berry. Radio Bomba. This is Radio Bomba. Colonnello? Marin, cos'è quel distintivo sul giubbotto? Un simbolo di pace, signore. Dove l'hai preso? Non me lo ricordo, signore. Che cosa c'è scritto sul tuo elmetto? Nato per uccidere, signore. Tu scrivi nato per uccidere sull'elmetto e porti un distintivo di pace. Che cosa credi di fare? Umorismo malsano? Signor, no. E allora dimmi, che cosa significa? Non saprei, signore. Non sai un sacco di cose, mi pare. Signor, no. Cerca di stabilire un contatto fra la testa e il culo, altrimenti sono cassi enormi. Signor, sì. Rispondi alla mia domanda, se no ti mando dritto alla disciplinare. Io volevo soltanto fare riferimento alla dualità dell'essere umano, signore. A cosa? L'ambiguità dell'uomo, una teoria junghiana, signore. Tu da che parte stai, giovanotto? Io tengo per noi, signore. Tu ami la tua patria? Signor, sì. Allora uniformati al programma, in riga con gli altri e avanti per la grande vittoria! Signor, sì.